Parentado e vicinato. Nei confronti del parentado, costituito da consanguinei e affini, e nei confronti del vicinato, la legge islamica prescrive regole di comportamento dirette a favorire la solidarietà e la coesione sociale. Disinteressarsi del parentado è considerato negativamente, come negativamente è considerato il favoritismo. Subito dopo i parenti vengono i vicini, che sono divisi in tre categorie. I vicini, che sono anche parenti, i vicini estranei al parentado, ma con vicinanza stabile, i vicini estranei al parentado con vicinanza occasionale. Nei confronti del vicinato, il musulmano ha il dovere dell'assistenza, della partecipazione al suo dolore, del renderlo compartecipe della propria gioia, di rispettare la sua proprietà, il suo onore, la sua integrità fisica. La Sharia regola ogni tipo di rapporto sociale anche tra soggetti che non siano parenti o vicini. È doveroso per il musulmano prender parte attiva al compimento di azioni virtuose e amorevoli. È riprovevole partecipare al comportamento di azioni peccaminose o ingiuste. Allah ha detto: siete la migliore delle comunità umane perché ordinate il bene e proibite il male. Il profeta ha detto: non pensate male, non immischiatevi nelle faccende altrui, non eccitatevi gli uni contro gli altri, astenetevi dall'odio e dalla gelosia, non contrastatevi senza necessità. Rimanete sempre servi di Allah e vivete come fratelli. Non sarete credenti fino a quando non amerete per il vostro fratello quello che amate per voi.